GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maltempo sul Friuli, ieri allagamenti, alberi caduti, mobilitati vigili del fuoco e protezione civile. Evacuato il liceo Carducci di Trieste, ieri diversi intossicati a causa di uno spray al peperoncino. Con l'auto in un dirupo al confine con l'Austria, morta una imprenditrice di Ugovizza. 1500 addetti a rischio nelle aziende artigiane della regione, strette dalla morsa dei rincari. Al via Casa Moderna Udine, in fiera Padiglioni, tutti occupati, ingresso gratuito da oggi a venerdì. Scienza, ma soprattutto ambiente e sostenibilità alla notte dei ricercatori in Porto Vecchio a Trieste. Vela presentata la Barcolana edizione 2022, treni straordinari per la storica regata triestina. A Pordenone via la 41esima edizione delle giornate del cinema muto, prime proiezioni già nel pomeriggio. 7:19 minuti di sabato 1 ottobre, buongiorno da Livia Liberatore e Rita Micoli. Il cielo è da nuvoloso a variabile. Alle 6 c'erano 17,5 gradi a Trieste, a Gorizia e Udine 15 gradi, a Pordenone 13, a Tolmezzo 13 gradi, a Tarvisio 9 gradi, a Forni di Sopra 8, sul Piancavallo e a Sappada 7 gradi, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 6 gradi, sulla costa a Grado 18 gradi, a Lignano 16, temperatura del mare 18 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi: cielo in genere variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana con più nuvolosità sulla fascia orientale. Di primo mattino non si esclude qualche foschia sulla pianura pordenonese, sulla costa soffierà libeccio moderato. Allagamenti, frane, alberi caduti ieri a causa del maltempo, oltre all'emergenza a Prepotto con allagamenti. Le forti precipitazioni hanno creato disagi anche a Cividale, Bicinico, San Giovanni al Natisone, Manzano, Trivignano, Udinese. Operativi ieri una 50 di volontari della protezione civile con 22 mezzi. A Manzano interventi nel sottopasso che collega la regionale 56 con via Sottomonte, strada interrotta in via Orsaria per alberi. Allagamento totale della regionale di Mortegliano dalla rotonda della Manganizza al cimitero di Manzinello. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio con i vigili del fuoco sono proseguite durante la notte. In apertura la cronaca con diversi intossicati ieri al liceo Carducci di Trieste, colpa di uno spray al peperoncino spruzzato da qualche irresponsabile di cui non è ancora nota l'identità. Durante la ricreazione ho sprayato nel peperoncino, è finito fino al terzo piano e siamo stati tutti malissimi, io compresa, che sono andata anche dentro l'ambulanza a fare una visita perché stavo veramente male, c'era gente che vomitava, che non riusciva a respirare. Il gesto sconsiderato di qualcuno al liceo Carducci di Trieste, nella succursale di via Corsi, poteva avere conseguenze ben peggiori di quanto accaduto, che non è poco. L'intero edificio è stato evacuato e chiuso fino al 2 ottobre. Una decina gli studenti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Tutte le persone coinvolte a livello sanitario dall'episodio sono state trattate sul posto e fortunatamente per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, ma il gesto è grave. I carabinieri, intervenuti per le prime indagini, inoltreranno la notizia di reato alla procura, che aprirà un fascicolo penale. Le ipotesi di reato potrebbero andare dal procurato allarme all'interruzione di pubblico servizio alle lesioni. L'episodio è avvenuto al termine della ricreazione delle 12, mentre gli studenti rientravano nelle aule, nel corridoio del primo piano dell'edificio che ospita il triennio di scienze umane ed economico-sociale. Alcuni professori hanno condotto gli alunni al piano terra in attesa dell'autorizzazione del responsabile scolastico a farli uscire. Altri, più lontani dal luogo in cui è stato spruzzato lo spray urticante, hanno continuato le lezioni. I professori non volevano chiamare perché dicevano che non era niente di grave e quindi un mio compagno di classe ha detto: ok, io chiamo perché c'è gente che sta male. E poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto evacuare. Dall'episodio al momento in cui i 300 studenti sono stati fatti evacuare è passata una 50 di minuti. Sul posto anche il gruppo nucleare biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco, che ha appurato l'assenza di sostanze tossiche. Sono stati i sintomi a chiarire che si era trattato di spray al peperoncino, sì. Uno strumento di piccole dimensioni ma di effetti estremamente potenti, in particolare in luoghi chiusi. Un gesto sciocco fatto in maniera irresponsabile che ha attivato una procedura dovuta e che per fortuna non ha avuto conseguenze, ha detto la dirigente scolastica Olivia Quasimodo. Parleremo con gli studenti per far capire la gravità di un gesto simile. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una donna di 51 anni, Natasha Errat, è morta precipitando con l'auto in una scarpata appena oltre il confine tra Tarvisiano e Carinzia. La donna, residente a Ogovizza, era conosciuta per l'attività di imprenditrice nel settore turistico. L'incidente, mentre stava percorrendo la strada che scende da una delle malghe del Monte Osternig a Feistritz in Carinzia, a ridosso di Sella Bistrizza. Una caduta di 500 metri che non le ha lasciato scampo. L'incidente si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì, ma è stato scoperto solo ieri. Le operazioni di soccorso e di recupero sono state ostacolate dal maltempo. La donna era sposata e madre di 3 figli. Tra chi soffre di più per il caro energia ci sono le piccole e medie imprese, ossatura del sistema economico produttivo regionale. Associazioni di categoria e sindacati monitorano la situazione, che rischia di precipitare con un effetto a catena di fermi produttivi e ricorso massiccio alla cassa integrazione. 500 aziende artigiane per 1.500 addetti a rischio in regione per gli aumenti energetici, stime dell'ufficio studi di Confartigianato, che sta monitorando le sue imprese energivore. A confermare il quadro difficile anche l'indagine online in corso sul sito di Confartigianato Udine. Dalle prime elaborazioni su un campione dei 6.500 associati emerge che 9 artigiani su 10 ritengono l'aumento dei costi energetici una minaccia grave per la propria azienda. 1 su 4 prevede fermi produttivi, riduzioni d'orario o sospensione dell'attività entro fine anno. Sommati al 65% degli incerti sul da farsi, potrebbero arrivare anche al 90% del campione. Lo stop appare l'unica strada possibile. Meno di un artigiano su 10 infatti riferisce di poter scaricare gli aumenti sui prezzi, e fra le imprese a rischio il 15% pensa di ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Qualcuno, anche tra le grandi imprese, lo sta già facendo. Il 20% punta invece su ferie e permessi e il 5% su licenziamenti e mobilità. Quasi tutti in azione per il risparmio energetico giudicano importante l'intervento della regione su questo fronte. Intanto 3 artigiani su 4 chiedono aiuto all'associazione di categoria. Richieste in aumento, siamo molto preoccupati, afferma il presidente di Confartigianato FVG Tilatti, che ha convocato d'urgenza la sua giunta subito dopo l'incontro coi vertici nazionali dell'associazione a Roma a inizio settimana. Rileva le stesse difficoltà anche l'indagine della Confederazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia. Il 43% dei 700 associati dichiara di non riuscire ad assorbire i rincari e il 14% pensa di chiudere del tutto o in parte l'attività. A preoccupare anche sindacati e Confindustria Udine è il futuro. Se le aziende finora hanno retto, osservano, a queste condizioni non potranno farlo ancora per molto. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Rincari dell'energia che fanno paura alle aziende, così come alle attività commerciali, che temono una distruzione del sistema produttivo. Si sfornano pane, brioche, prodotti da forno nel laboratorio di Via San Valentino, uno dei più grandi a Pordenone. Qui i costi dell'energia quest'anno peseranno per 200.000 euro in più. Il titolare Davis Ferrazzo. Cosa significa questo aumento di costi per un'attività come la vostra? Sacrificare tutto quello che si è risparmiato in questi 10-12 anni di attività fino adesso e nei prossimi mesi, mentre fare indebitarsi anche per i prossimi anni. Il bello è che non si può riversare poi nemmeno sul prodotto questi aumenti, no? Praticamente una brioche bisogna far pagare, abbiamo calcolato circa sui 3,50 euro, quasi 4 euro una brioche, un caffè e anche lì siamo sui 3 euro, 4 euro, il pane dobbiamo portarlo a 15 euro al chilo, il pane è impensabile riversare sul cliente finale questi aumenti stratosferici. Siamo poi entrati in un supermercato a Fontana Fredda, qui l'ultima bolletta è passata da 8 a 23.000 euro, costi insostenibili. Sergio Bertanza, titolare di supermercato. Sono insostenibili, vorrò vedere quali sono le aziende che riusciranno il prossimo anno, al momento di redare il bilancio, quante saranno inattive le aziende a questo punto, di qualsiasi tipologia siano, perché sono coinvolte tutte le aziende a questa schifosità. Così come sono coinvolti i comuni. A Pordenone la bolletta costerà dai 3 ai 4 milioni di euro in più. Il sindaco Alessandro Ciriani. Un vero e proprio dissanguamento, soldi che non finiscono nei servizi ma finiscono per pagare appunto la corrente elettrica, il riscaldamento. Stiamo facendo iniziative ad ampio raggio, cioè per esempio l'efficientamento energetico di tantissimi edifici, circa 30. Adesso partirà un partenariato pubblico-privato per sostituire tutta l'illuminazione pubblica a LED. Però è evidente che questa partita partita non si vince e non si gioca sui municipi, ma serve invece un'incisiva azione a livello nazionale ed europeo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un breve aggiornamento sul maltempo: c'è stato un intervento impegnativo questa notte tra Atimis e Nimis all'altezza del passo di Monte Croce, impegnate la protezione civile, i vigili del fuoco, il personale di Friuli Venezia Giulia Strade per una pianta di faggio di grandi dimensioni caduta sulla carreggiata. La strada è stata chiusa al transito e mentre le operazioni erano in corso una seconda pianta è finita per tre quarti con il fusto sulla carreggiata. Entrambe le piante sono state rimosse, il traffico è stato riaperto intorno alle 2:30 della notte. Al via Casa Moderna, la fiera dedicata alla casa e all'abitare, è arrivata la 69esima edizione. Stand aperti alla fiera di Torreano di Martignacco dalle 10. Inaugurazione ufficiale alle 11:30 in Sala Bianca. Padiglioni al completo con 126 espositori diretti che con le loro case rappresentate portano oltre 200 i marchi presenti. Sostenibilità e risparmio delle risorse energetiche e naturali, economia circolare, sicurezza e comfort, fili conduttori dell'esposizione, in particolare nel padiglione 8 di Casa Biologica. Nel padiglione 7, Cata, CNA e Confartigianato con una collettiva di aziende delle lavorazioni del territorio. 9 giorni di fiera che sarà visitabile fino a domenica prossima 9 ottobre, da lunedì a venerdì. L'ingresso è gratuito, sabato e domenica soli 3 euro, registrandosi preventivamente sul sito promocasamoderna.it. A Udine il presidente di Italia Viva, vicepresidente della Camera e neoletto alla Camera con la lista Italia Viva Azione, Ettore Rosato, e Isabella De Monte, segretaria regionale di Azione e neoletta per la Camera dei Deputati, incontrano i sostenitori alle 11 al Gran Caffè Friuli di Via Aquileia 111. E prosegue il congresso annuale del Centro Balducci di Zugliano, in programma fino a domani, a pochi mesi dalla morte del fondatore Don Pierluigi Di Piazza. Tra gli appuntamenti in programma oggi alle 9 il convegno Non girarti dall'altra parte, la solidarietà e l'accoglienza in un mondo in cui le disuguaglianze non cessano di crescere. Alle 15 il tavolo Fuori dal tempo, ecumenismo e interreligiosità davanti a un Dio che non può non insegnare amore e fratellanza. Il 3 ottobre sarà la giornata nazionale in onore delle vittime dell'emigrazione. Quest'anno il Friuli Venezia Giulia e Trieste in particolare è sede nazionale della giornata. Le celebrazioni iniziano alle 16:30 al cimitero di Sant'Antonio in Bosco, in ricordo dei 4 migranti morti di freddo in Val Rosandra nel 1973. Alle 18 al Teatro Prescheren di Bagnoli della Rosandra, incontro con Carlo Cefaloni, redattore della rivista Città Nuova. A seguire spettacolo teatrale Lampedusa Beach con Sara Alzetta. Domani mattina alle 10:30 marcia di solidarietà lungo un tratto della rotta balcanica. Le città transfrontaliere diventino ecosistema della cooperazione con Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura, città pioniere, modello europeo di questa nuova visione. Se ne è parlato al 18° forum internazionale dell'Euroregione Aquileiese organizzato dall'associazione Mitteleuropa. Obiettivo: creare un vero e proprio ecosistema giuridico, economico, sociale e culturale all'interno del quale le città di confine possano crescere insieme. Si sono confrontati i sindaci di città transfrontaliere da 18 paesi, rinnovato l'intento di ritrovarsi ogni anno facendo di Gorizia la capitale delle capitali della cultura europee. Ancora la cronaca: 2 donne sono state denunciate per truffa aggravata ai danni dello Stato dopo essere state sorprese all'esame di teoria per la patente di guida con una pendrive munita di microtelecamera che permetteva di inviare all'esterno della sala le immagini delle domande e un microfono a batteria per comunicare con chi doveva suggerir loro. Le risposte corrette venivano fornite alle candidate attraverso un auricolare. Gli agenti della questura di Pordenone in Borghese le hanno individuate e proceduto al sequestro dei congegni. E oggi alle 11 nel Teatro Comunale di Monfalcone una cerimonia per ringraziare i volontari e gli enti che hanno partecipato allo spegnimento degli incendi che hanno colpito il Carso quest'estate. Tante le persone che ieri pomeriggio hanno sfidato la pioggia per raggiungere il Porto Vecchio di Trieste, sede quest'anno della Notte dei Ricercatori. Negli stand protagonisti soprattutto ambiente e sostenibilità. Le alici, i gamberetti. L'educazione ambientale passa attraverso gli occhi interessati e curiosi dei più piccoli, protagonisti di Sharper, la notte dei ricercatori che si celebra a Trieste lo stesso giorno, nelle stesse ore, come in tutta Europa, fitto il programma Tanta Scienza, Tanta Educazione alla Sostenibilità. Chiara Soriani, guida Area Marina WWF. Abbiamo deciso di raccontare una storia, la storia di un pescatore che pesca una verdesca e si accorge che al suo interno ci sono altri organismi. Quindi questo farà capire ai bambini come la catena alimentare deve essere stabile. L'edizione di quest'anno è dedicata non a caso a Piero Angela, re della divulgazione, e decisamente divulgativi sono gli eventi. Per esempio, chi mai avrebbe detto che anche gli astrofisici inquinano? Mario Spera, astrofisico SISSA. L'astrofisico computazionale, cioè quello che usa le risorse di supercalcolo, quindi fa simulazioni su supercomputer, dà sicuramente un contributo importante all'emissione di gas serra nel pianeta. Tante le persone che hanno sfidato la pioggia per esserci per la prima volta non in centro in Piazza Unità, ma in Porto Vecchio al magazzino 26, già sede dell'immaginario scientifico. Serena Mizzanna, direttrice immaginario. Questo porto, il Porto Vecchio, che è stato il porto delle merci, a nostro avviso non poteva che diventare, in una Trieste che è città della scienza, il porto delle idee, dove non si incontrano più quindi le merci, ma le idee, la conoscenza e le persone. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Torna anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna Match It Now, con la quale ADMO, in concomitanza con la Settimana Mondiale della Donazione di Midollo Osseo, punta a sensibilizzare i giovani sull'importanza di questo gesto. Dopo Udine, Pordenone e Gorizia, oggi a Trieste in via Dante, dalle 10 alle 19, sarà possibile ricevere informazioni per iscriversi al registro italiano donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, possibile con un semplice indolore prelievo di sangue o la raccolta di un campione salivare. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid, è stata registrata una drastica contrazione del numero di nuove iscrizioni. Nel 2019 si sono iscritte in regione 1.433 persone al registro dei donatori. Quest'anno l'obiettivo è di arrivare almeno a quota 800. Si parla di fibromialgia questa mattina alle 10 a Udine, dove fa tappa l'iniziativa 100 città contro il dolore, una tavola rotonda per diffondere la cultura della terapia del dolore. L'iniziativa è della Fondazione ISAL, il primo istituto per lo studio del dolore in Italia, e del comitato Fibromialgici Uniti, un'associazione la cui referente per il Friuli Venezia Giulia è Elisa Lombardi. Sentiamo l'intervista. Aspettiamo chiunque abbia voglia di partecipare, di sapere cos'è la fibromialgia, cos'è il dolore cronico, e di parlare anche con appunto i nostri medici che faranno i relatori in questa iniziativa importante. Da tanto tempo si cerca di trovare un marker, qualcosa che possa anche diagnosticare più facilmente questa malattia. Ci sono sviluppi da questo punto di vista? La ricerca sta andando avanti. Purtroppo ci serve tempo, perché ovviamente è una ricerca molto importante, ha superato i primi livelli, quindi siamo alla fase finale, che è la fase più lunga, perché deve essere trovata una quantità di gente per avviare i vari protocolli su umani. In due parole, che cosa significa avere la fibromialgia per lei? Vuol dire stare H24, 7 su 7, male. Vuol dire avere dolori lancinanti, avere disfunzioni cognitive. Non posso decidere cosa fare fra 10 minuti, perché non so come starò tra 10 minuti. Quanto spesso nella sua esperienza questo è stato confuso con depressione o altre malattie che invece hanno origine psicologica? Io ho 41 anni, sono una fibromialgica purtroppo dalla nascita, e fino all'età dei 35 sono stata scambiata per psichiatrica, quando poi gli psichiatri che mi visitavano dicevano: cosa ci fai tu qua? È un classico, purtroppo, sì, di questi pazienti. È molto facile. Sì, ed è per questo che l'associazione, il CFU Italia, lotta per fare rete sul territorio, perché queste cose non avvengano più. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani campagna di raccolta fondi, la mela di AISM, promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I fondi raccolti andranno a potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi e a sostenere la ricerca scientifica. La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. Dopo i traumi, l'Italia è paese a rischio medio-alto. Di 6 miliardi di euro l'anno il costo sociale medio della malattia. L'elenco dei luoghi della regione in cui verranno distribuite le mele sul sito dell'associazione. Tour ciclistico in 3 giorni, da oggi al 2 ottobre, da Tarvisio a Trieste, prima edizione dell'evento ideato dal CRAD, Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici del Friuli Venezia Giulia. Evento non competitivo impegnerà sia ciclisti mediamente esperti, sia persone con diverse capacità che potranno pedalare anche per brevi tratte con bici elettriche. L'obiettivo è di sensibilizzare e fare informazione su questa malattia, facendo comprendere come la pratica dell'attività fisica possa influire positivamente sulla gestione del diabete. Nell'ambito della campagna nazionale Nastro Rosa, fino a fine mese la fontana di piazza della Borsa Trieste sarà illuminata di rosa per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori alla mammella. Si avvicina l'appuntamento con la 54esima edizione della Barcolana di Trieste. Attorno alla storica regata di domenica 9 ottobre, tanti appuntamenti senza più le limitazioni dovute alla pandemia. È la settimana in cui Trieste spiega le vele e si fa conoscere nel mondo. Barcolana, che dopo aver navigato nel mare della pandemia, si prepara a celebrare l'edizione 54 con il pieno in città di appassionati del mare e semplici turisti. Mitja Jaluz, presidente Società Velica Barcole Grignano. Ci siamo con 14 regate, 170 eventi, le iscrizioni che corrono verso 1100, è una bellissima atmosfera. Enjoy sarà il motto di questa Barcolana. Torna la musica, torna il divertimento, una bella festa per la città. Spetta, come sempre, ai giovani della classe Optimist aprire ufficialmente l'ottobre velico triestino. Nel weekend regate con 6 prove dedicate ai velisti Under 14. Trenitalia supporterà la Barcolana con treni straordinari e lo farà anche la RAI, media partner dell'evento. Giulio Guazzini, RAI Sport. Stiamo preparando uno speciale sulla storia della Barcolana, che andrà sabato su RAI 2 nel pomeriggio, e poi naturalmente saremo presenti con la TGR, con voi, per quanto riguarda la diretta. La diretta quest'anno avrà qualche novità, probabilmente come commentatori, come ospiti, ma sarà sempre vigile nel raccontare, nel seguire questa storia incredibile, quella della Barcolana. Prova generale per gli aspiranti vincitori, il trofeo Bernetti, in programma domenica 2 ottobre, la storica regata di 16 miglia da Trieste a Sistiana. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il basket, oggi l'esordio in A2 per Gesteco Cividale alle 20 sul parquet di casa affronterà il Chieti, a Udine impegnata invece domani a Ferrara, così come in A la pallacanestro Trieste che ospiterà Pesaro. Il ciclismo, secondo posto per Jonathan Milan al Giro di Croazia nella quarta tappa vinta dal francese Laurens. Gli abbuoni conquistati consentono al corridore di Buia di consolidare la maglia di leader con 10 secondi sul vincitore del Tour, Vingegaard. Ancora ciclismo, Fiume Veneto ospita per il secondo anno i campionati italiani cronometro a squadre, presenti i migliori atleti italiani delle categorie allievi e juniores, maschi e femmine, e under 23 dalle 9 e per l'intera giornata. Il judo, sono più di 400 gli atleti attesi oggi e domani al Palacus per il Gran Prix di Udine, manifestazione che comprende 27esimo trofeo Alpe Adria, Gran Prix nazionale, Junior Senior e Alpe Adria Junior Challenge. Tra gli atleti Matteo Medves, udinese delle Fiamme Oro, testimonial della manifestazione, e Giorgina Zanette, atleta di spessore internazionale, oggi tecnico di club. Inizio gare alle 9.30. Ci sarà il presidente nazionale della FISI Flavio Roda questa mattina ad Amaro all'assemblea straordinaria elettiva del Comitato regionale della Federazione Sport Invernali, dopo che l'organismo era stato commissariato per irregolarità di voto a fine luglio. Candidato unico il tarvisiano Maurizio Dunhofer, che nei precedenti 4 anni aveva ricoperto il medesimo ruolo. Oggi e domani Palma Nova Health Race, competizione sportiva di corsa da 6 e 12 chilometri, competitiva e non, durante la quale i runner troveranno 30 differenti ostacoli e prove fisiche da superare. La partenza degli atleti è prevista alle 10 dal polisportivo Bruseschi verso il percorso che si snoda lungo i bastioni. Nel 2019 erano stati quasi 1000 partecipanti. Cultura e spettacoli, cominciamo dalla 41esima edizione delle giornate del cinema muto, che saranno inaugurate alle 21 al Teatro Verdi di Pordenone e che proseguiranno fino al prossimo sabato. Alle 21 la proiezione di The Unknown Film di Todd Browning del 27, che racconta l'amore di un artista del circo senza mani e braccia per la sua giovane partner. Il film viene proiettato in una nuova versione restaurata serata. Al via oggi, con le prime proiezioni già nel pomeriggio, anche le principali retrospettive, quella sul mitico regno della Ruritania e quella dedicata all'attrice statunitense Norma Talmadge. In giornata anche i primi film della sezione Riscoperte e Restauri. E ancora saldamente nel cuore e nei ricordi di molti, se a 40 anni dalla morte, esce un libro per ricordare la sua vita al servizio del prossimo. Non lasciatemi solo, la storia di Monsignor Pietro Coccolini, il vescovo che voleva fare il parroco. L'autore è Pierpaolo Gratton, giornalista e saggista che presenta il suo lavoro nella sala del Consiglio Comunale a Ruda alle 10.30. Sentiamo. I diari di Monsignor Pietro Coccolini mi sono stati dati tanti anni fa ormai da suo nipote, Don Silvano, che era prete anche lui, dicendomi guarda di farne buon uso. Dopo tanti anni sono riuscito a pubblicare questo libro che ripercorre un po' la storia del vescovo friulano e con un titolo abbastanza curioso, Non lasciatemi solo. Era l'appello che lui aveva lanciato sia ai suoi familiari sia ai suoi stretti collaboratori nella chiesa di Sant'Ambrogio a Monfalcone, appena avuto la notizia che Papa Paolo VI lo aveva nominato vescovo di Gorizia. In realtà poi nei 15 anni in cui lui fu vescovo della diocesi sull'Isonzo venne invece lasciato solo. Dà l'idea di essere un uomo molto lontano da quello che va di moda un po' adesso, no? Un uomo, era un uomo mite. Ma, guarda, Monsignor Coccolini è stato innanzitutto un uomo buono. È stato un vescovo che ha amato profondamente la sua diocesi, che ha amato profondamente i suoi fedeli, che ha amato anche profondamente, diciamo, il presbiterio, tutti i suoi parroci. Purtroppo questo amore non è stato a sua volta ricambiato, nel senso che lui ha dovuto lottare praticamente su tutte le decisioni che ha preso nei 15 anni in cui è stato vescovo di Gorizia. Voleva rinnovare la diocesi, era gli anni successivi il Concilio Vaticano II, ci spirava aria di novità anche nella Chiesa, lui voleva fortemente portare la diocesi di Gorizia su nuove vie, purtroppo la morte lo ha colto giovanissimo, a 61 anni, e sono convinto che se fosse vissuto almeno 10 o 15 anni in più, insomma, avrebbe fatto molto bene, avrebbe portato la diocesi di Gorizia, diciamo, su posizioni molto molto avanzate. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, cambio di programma per il terzo concerto della stagione sinfonica del Verdi di Trieste. Il Salmo 83 di Alexander von Zemlinsky sarà sostituito dal preludio da Lohengrin di Richard Wagner alle 18. La sovrintendenza sta già lavorando per recuperare il programma in uno dei prossimi concerti. Primo appuntamento della seconda stagione del Teatri Stabil Furlan a Udine alle 18 nel giardino di Palazzo Morpurgo. In caso di maltempo al Teatro San Giorgio, in scena l'opera mai rappresentata del Pierpaolo Pasolini negli anni di Casarza, La morte Ane, produzione di Area Area con Teatri Stabil Furlan e Comune di Casarza. Al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento alle 18 Pierpaolo Pasolini e il mito contadino, reading con musica e immagini, produzione della storica società operaia di Pordenone. Torna a Udine per Teatro Contatto Pippo Del Bono con il nuovo spettacolo Amore alle 20.30 al Teatro Palamostre alle 18 il regista e attore incontrerà il pubblico. Vivaldi per la serata di gala dell'Accademia Naonis a Cordenons con il violinista Glauco Bertagnin al Centro Culturale Aldo Moro alle 21, ingresso gratuito. Inaugura la mostra in ricordo di Giuseppe Zigaina alla Galleria Nuovo Spazio di Udine a Palazzo Manin dalle 18 in esposizione le opere dagli anni 50 agli anni 80, in esposizione anche gli scritti di Zigaina su Pierpaolo Pasolini, aperta fino al 22 ottobre con mostre e convegni. Dora Bassi, immagini e parole, inaugurazione della mostra alle 11.30, inizialmente a Casa Maccari a Gradisca di Sonzo, quindi nella vicina Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan. Amici animali, a Trieste Open Day dell'Asta, d'Associazione Maria Nora Economo per la tutela dell'animale domestico, dalle 15 al rifugio di strada per Rupin Grande 1098 a Opicina, porte aperte per la consueta benedizione degli animali da parte di Don Alessandro Cucuzza e la premiazione della scrittrice Emily Menguzzato per il suo ultimo libro Il mio amico Arturo. Si prosegue con la presentazione dell'ultimo progetto di raccolta fondi Vau Vento Asta, indetto dall'associazione all'interno del Charity Program della Barcolana per ristrutturare gli impianti del rifugio. Vediamo il piccolo di Trieste, l'apertura è sul Porto Vecchio che si svela, presentata la campagna di comunicazione digitale del comune fino al 14 ottobre. Nella fotonotizia Barcolana 54 si apre la grande festa del mare, nella cronaca il balzo del Covid, contagi su del 69% in una settimana. Poi Fondazione CR Trieste, si chiude l'era della presidenza di Tiziana Benussi, la missione dell'ente è star dentro la città. Spray urticante al liceo Carducci, 20 intossicati. Le parole del parroco del Duomo di Muggia De Stradi, nuova colletta per chi è in difficoltà e in chiesa a Muggia, stop al riscaldamento. Infine la tela d'acquerello dipinta sulla parete dell'oncologia del Burlo, un progetto in cui sono stati coinvolti 40 studenti. Nelle pagine della cultura il mito di Ruritania, regno balcanico nel cinema muto. Per il basket, Trieste è pronta per l'esordio nel nome di Sveva. Aumentano i contagi, l'apertura del Messaggero Veneto che con la fotonotizia richiama un ampio servizio sul crollo dei consumi di frutta e verdura, meno 11%. Di spalla il maltempo, la morte dell'imprenditrice di Ugovizza al confine con la Carinzia. In taglio basso l'avvio di Casa Moderna, ad aprire la cronaca cittadina i tagli del comune di Udine. Sui consumi ne abbiamo ampiamente parlato ieri, sia allo smart working si legge, ma niente pista per il pattinaggio su ghiaccio. Sul Gazzettino infermieri, valzer per coprire i buchi. Nella foto un'immagine di Natasha Errat, muore mentre torna dal lavoro in Malga. In prima anche la cassa integrazione per i lavoratori di Metinvest a San Giorgio, il maltempo. In basso lo sport, tra calcio e debutto nel basket di A2 per Cividale. Il piccolo di Gorizia e Monfalcone apre su Gusti di Frontiera che entra nel vivo, la pioggia non frena l'evento, gli stand toscani e austriaci sono i preferiti, con diversi approfondimenti sugli stand, le eccellenze della regione Friuli Venezia Giulia da Slow Food, dalla Svizzera non solo le cornie di cioccolata. Nella cronaca Cisint, tante opportunità ma la burocrazia resta un ostacolo per Porto Rosega. Il portiere Gianluca Coccolo, vittima di un grave infortunio durante una partita, è fuori pericolo e ricorda lo scontro. Gorizia e Nova Gorizia, un esempio per le città di confine europee. Sul fondo, da Monfalcone, un'esperta valuterà le vetrine in centro. È uno degli strumenti che l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per rendere attrattivo il centro. Linee guida a breve. Sul Gazzettino di Pordenone l'apertura per la sanità, come su quello di Udine. Nella fotonotizia il ponte di Nantes lo farà Cimolai, si legge. Ancora indagato per omicidio stradale, l'uomo alla guida della vettura che si è scontrata con l'auto dell'ex campione di atletica Mario De Marchi, la moglie in condizioni gravissime. Poi polizia locale con il nuovo comandante Massimo Zorzetto e a Cordenos proprio i vigili sono intervenuti per interrompere una consigliera ribelle alla richiesta del sindaco di terminare il suo intervento. Sul Messaggero Veneto, Electrolux vende la sede in Svizzera per 21 milioni. Nella fotonotizia, colte le richieste degli studenti, la TAP cambia gli orari dei bus. Ad aprire la cronaca cittadina, autovelox fisso e telecamere sulla strada dell'incidente, il rettilineo Pordenone-Oderzo e poi la truffa per l'esame della patente e il via alle giornate del cinema muto. Vediamo altri appuntamenti. Oggi e domani 38esima edizione di Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia. Sono 19 le dimore che apriranno le porte grazie al lavoro del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici della regione, con due novità. Villa Ottelio Savornian ad Aris, il Castello Valentinis di Tricesimo. E sarà consegnata all'amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento la bandiera dell'Associazione Nazionale Città del Vino, un passaggio che segue l'adesione delle scorse settimane che ha fatto diventare San Vito il 38esimo membro in regione del sodalizio. Verranno completate nel fine settimana le operazioni di manutenzione della pavimentazione e di rifacimento dei giunti del cavalcavia di svincolo autostradale di Monfalcone Est, sospese nello scorso fine settimana a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dalle 20 di questa sera alle 8 di domani mattina, domenica, sarà chiusa la rampa d'uscita della carreggiata ovest in direzione Venezia dello svincolo per chi proviene da Trieste. Chi è diretto verso le località servite dallo svincolo di Monfalcone Est dovrà uscire assistiamo. Ed ora sentiamo un'anticipazione dei temi della puntata di oggi della rubrica della TGR, il settimanale estate. Torna il settimanale estate in questa puntata. In montagna, Cortina, dopo una stagione da record, le incognite per quella invernale tra caro energie e caro prezzi, ma le prenotazioni fioccano. Il recupero di vecchi quartieri e aree dismesse, i cantieri e gli investimenti, la crisi e i ritardi nell'analisi del manager Manfredi Catella. A Prato, la scuola che ha in programma le lezioni di gentilezza, il ritorno in grande stile al pre-pandemia della settimana della moda di Milano, il Monte Bracco, la montagna di Leonardo da Vinci, la produzione dei fichi secchi DOP di Cosenza, dal Molise la storia tra realtà e fantasia dell'orso soldato, oggi nel settimanale Estate 12:25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con l'ultima puntata di Parapapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 92. A mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Regia Vassia Crisman, Cice Walter Vidonis in redazione. Ha collaborato Valentina Veneruso, da Livia Liberatore e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.